comunque che uscisse. Va bene Lu, dai, io qua sto trafficando con cavi e cavetti. Ci sentiamo, lascio la monitor canale 10, ok? Ciao! Ciao, ciao Marco! Bombolus. Beh, chi è? Avanti. Ciao, Marco da questa parte. Oh, ciao Marco, buonasera. Non è entrato nessuno? No, negativo, è entrato Luca a salutare prima da quell'altro QTH, però io stavo facendo prove qua. Inutile, vabbè, non dico, non vado a spiegarlo, roba lunga, dai. KK, dai. Oh, io mio. Siamo addormentati poco fa. Stavo basso basso, ma che ho sentito qualcosa. Ma non mi ricordavo che era Luca. Ehi, io fra poco faccio qualcosa da mangiare, eccetera. E così, comunque una giornata più bella oggi, più assolata, più costruttiva anche, dai. Ho fatto varie commissioni e poi così, poi mi attacco un po' al computer, devo fare degli aggiornamenti, solita routine, dai. Ma non vale, cazzo, c'ho il QRM basso c'ho adesso. Dopo il magari c'è sempre il QRM alto, ma secondo me è qualche TV che mi disturba. E saranno quegli alimentatori switching che ormai hanno tutti gli apparecchi, o interni o esterni, computer, TV, tutta roba elettrica, abbastanza, quelle lampadine maledette a LED, bene o male, c'è molto più rumore rispetto a una volta. Una volta accendevi tipo la notte tardi, parlo di 30-35 anni fa, e sentivi il silenzio completo, non sentivi un filo di QRM. Adesso è diverso, adesso anche la notte un leggero soffio crepitio di fondo lo senti sempre. Poi io il noise blanker non ne uso. Sono quelle merde di cose, no vabbè, una padina a LED tanto quanto. Sono quei cavolo di cose. Gli ho ripetuto in antenna, e questi pezzi là, dai. Sì, è tutta quella roba che crea un sacco di mondezza. Io me ne accorgo anche quando se sto ricevendo anche le bande amatoriali, no? A seconda di che ricevitore usi, se accendi la luce in certe frequenze fa rumore, se accendi la TV in certe frequenze fa rumore, e l'antennino vicino, no? L'antennino nella stessa stanza. Bene, bene, bene. E K, io ho messo un pochettino alterato adesso. Me li accendi tutti i LED? Fondo scala? Sì, poi questi a LED, capirai, c'hanno il più 10, il più 20 e il più 30. Tre miseri LED, e chi sa se arriva sempre al più 30. Che capo, no, già è andente la cosa, è ovvio. È che non c'è più nessuno a Porto Torres, dovresti fare le prove tipo con Porto Torres, o comunque con le borgate, che ne so, Ottava, un po' in distanza, mi conta che quella è sempre un'antenna limitata. Scappa. A Porto Torres, no, con appare antenna grande, cioè, con un'antenna grande magari, già dalla veloce, già lo sentivo a Porto Torres, cioè, io penso che qua non dovrei avere problemi. Sì, con l'antenna grande sì, con la 5 ottavi, anche con la mezz'onda sì, e come? Anche Alghero se per questo. Va bene, dai. Oh, penso che già quando era veloce a Sandro a Porto Torres, lui vabbè non mi sentiva, però io lo sentivo. Dipende, chi era da Porto Torres? Torres all'epoca. E c'era Sandro, quel Sandro, e poi non mi ricordo chi altro c'era. Vabbè, ma Sandro pompava, lui non usciva un 4 watt. Almeno 200, perciò tu sentivi lui e lui non poteva sentire te. Tu eri anche in antennino, no? Una cosa ridotta era comunque. Senza antenna, ma era coperto. Eia, eia. Sì, lui arriva forte per i motivi che ti ho detto, no? Così, dai. Sono senza parole, sono. Non so cosa dire, Antu. Perché? Ehi, boh. No, stavo qua armeggiando, devo fare una tarattura, però... E come si fa? Per farla bene ci vorrebbe uno che ha un apparecchio amatoriale che mi ascolti. Però, al momento, magari chi può è andato in campagna, è andato da amici, è uscito a fare in giro con la famiglia. E la giornata è bella. Ecco, beh, sicuramente. No, ma già... Il microfono è sempre quello di serie, eh? Guarda, ti faccio un paragone, così sono quattro dita dal mic, quattro dita, grosso modo 10 centimetri, e così sono vicino al mic. Due dita, dai, facciamo uno o due dita. No, va bene, sia uno che l'altro, ti ascolto sempre bene. Sì, questo già tolto dalla scatola va bene. Qualcuno necessita qualche ritocco leggero, non è un problema, dai. Scappa. No, già. Va bene, va bene. Ho fatto uno sbadiglio che potevo inghiottire tutto il baracchino. Addirittura un baracchino si ingotte. Eia, eia. Comunque ho acceso quello, ho acceso questo, lo devo fare entrare in temperatura. Una volta che è entrato in temperatura, che si stabilizza, è che c'ho, mamma mia, una paura a usare sti menu di servizio. Sono roba assai delicata, K. Sì, servizio. Sì, menu di servizio. Sono dei menu segreti, tra virgolette, che ti permettono di centrare un apparecchio, per esempio se è spostato in banda laterale. E questo in USB, l'LSB non lo conto nemmeno, però in USB è spostato indietro, in trasmissione, e anche in ricezione in realtà. Con questo menu di servizio puoi allineare perfettamente la banda laterale, tutte e due le bande laterali, però quella che mi interessa è la USB. Ah, capa. Sapevo. Roia, ok, dai. Mi stanno chiamando. Ma ci sentiamo un po' più tardi? Sì, se c'è qualcuno, Anto. Se c'è qualcuno, al limite. Oggi sono un po'... Non ho tanta voglia, dai. Vediamo, io comunque sono bene o male o qui o sto facendo prove nei canali adiacenti. Ok, dai, buona serata Antò. Se no, se non ci sentiamo dopo, ritieniti salutato, ok? Ciao, buona serata, ciao. Capo, dai, ma te rispondo. Stavo chiamando. Ciao, ciao, dai, ce la risentiamo, dai. Sì, ciao, buona serata, ciao, ciao. CQ canale 10. Buonasera. Oh, e come mai già sveglio? La colazione è fatta là. No, mi stavo apprestando. E allora Gianfra, c'era Bombolo, mi hanno scambiato le paroline, ero un po' spento, dai. Ho fatto la spesa, eccetera, così. Vabbè, oggi è stata costruttiva la giornata, forse lo sarà ancora di più. No, dovevo qua farmi delle tarature con un apparecchio a fianco, perché questo apparecchietto ha dei menu di servizio per centrare la banda laterale. perché di fabbrica è abbastanza spostato questo, mi interessa solo la USB. Solo che una giuggana è una cosa un po' delicata anche. Sì, quella sì, ci vuole attenzione, caccia avvitante induttivo e cose di quel genere, se devi fare centratura, soprattutto in parti dove c'è la radio frequenza, eccetera. Oggi è una giornata veramente balorda perché io sono in piedi dalle 6 e spiccioli. C'era freddo stamane, adesso ci sono roba di 26 gradi, una cosa allucinante, cioè io non ho mai visto uno sbalzo termico di queste dimensioni, veramente. Tu fidati che ha fatto tanta acqua che quando esco fuori c'è ancora il pozzanghere, no? Nonostante questa temperatura forte. È tutto pieno di formiche piccole, piccolissime, grandi, enormi. Una mi stava bucando la ruota della macchina, ho preso l'accetta, l'ho tagliata in due, una parte è andata a sinistra e l'altra si è messa a girare in tondo a se stessa la formica. Poi l'ho vista l'altra parte e se l'è mangiata. Eia. Bene, per darmi un'idea, se tu mi potessi dire, però non so che apparato hai, no, vabbè. No, c'è un apparato serio, molto serio, quindi qualcosa te la potrò dire. No, sapere di quanti hertz ero spostato in USB, sono spostato indietro a quanto ne so io. Sì, aspetta che passo in VFO. Che quello c'ha tutta la regolazione. Io mi appresto già, comincio ad andare in USB, una cosa veloce tanto. Sì, ecco, adesso sono in VFO, quindi li posso controllare. USB esecutivo. Chi chiama sul 10 avanti? Chi chiama sul 10 avanti? Non pervenuta, dai. Ecco qua, questa è la modulazione M, sto cercando di parlare di lato al mic per non sputarci sopra. E va bene, dai. Io sono un po' lontano dal microfono per parlare, diciamo, tranquillamente, però dovrebbe andare bene. Tu sei una delle poche stazioni che su questo affare, non c'è un segnalatore coerente, però tocchi 10, tocchi il coso di 10 e sono forse 3, massimo 4 stazioni che se lo possono permettere. Ma tu stai parlando di modulazione o di segnale? Segnale. Ah vabbè, conta che adesso però non ho il 3009, questi dovrebbero essere 10 watt tondi. No, sto sbagliando, 10 watt, però il filtro fai che ne tolga 2 watt, fai che siano 8 watt puliti, dai. Comunque è molto forte come segnale. Io invece ti dico con precisione i watt di questo, sono esattamente 4. 4 in antenna, non so quanto siano perché ripeto poi c'è 30 metri di coso lì di cavo a voglia e a perderne, ci arriveranno in antenna penso 2 watt e mezzo, 3 forse. Eia. Vediamo che LED mi accendi qua dei 3 dopo il 9, credo che sia 9 più 10, vediamo. Allora vedi un po', non vedo picchi, cioè se ci sono sul segnale sono molto bassi, anche fischiando la lancetta si muove di poco. Allora 9 più 10, cioè c'hai il 9, poi c'hai 10, 20 e 30. E a livello di modulazione, vediamo, questo è una cosa poco usata, diciamo, così sono a 4 dita, non ho idea se stia uscendo o no, perché non, questi cosi a LED non fanno vedere niente, così vicino al mic, magari di lato, in modo da non sputazzare eccessivamente sopra. La radio è sufficientemente chiara, sì? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ripeto, ci ho spento il computer, se no te la farete più sentire tranquillamente. Poi mi auguro tra qualche settimana si potrò dare controlli di precisione proprio in realtà, dopo che ti senti, ecco, ti senti automaticamente, senza salire, arrivi con la fermata, eccetera, così qualcuno almeno ci crede quando le dici le cose, non si offende. Eia, vediamo un po', ok. Adesso io questo non l'ho mai sentito, di solito per ascoltare come esco metto l'altro baracchino nell'altra camera con un cacciavite come antenna, no? Proprio perché non sia a zero senza antenna, e un registratorino di quelli digitali che hanno una fedeltà discreta, dai, di quelli della Olympus, no, Sony. E mi ascolto, capito? Mi registro, mi ascolto da un altro apparecchio che riceve ovviamente bene, c'è una buona ricezione e mi faccio un'idea. Ma questa la definiresti una modulazione bassa? Perché Luca prima, che vabbè, lontano, c'è un antennino, c'è QRM anche, mi ha detto che ero basso di radio, molto basso di radio. Ma secondo me è una radio normale, quindi niente di particolare. No, non è brutta comunque, è la tua radio ottima, a prescindere che sia media, bassa, eccetera, eccetera. Poi a me interessa che sia chiara, limpida, non mi interessano effetti eco, già lo sai, piuttosto meglio segnale basso e radio buona però. Radio limpida mi intendo, non radio gaba gaba. Ok, c'è stato anche uno che ha detto è buona, è buona. Vediamo un po', faccio una prova, questo com'è, però non me lo ricordo più, se lo può mandare, questo non lo può mandare. Hai detto, c'è stata un break? Sì, uno che sta chiamando. Conta che uso. Vediamo un po', prova. È un po' deficita come modulazione questo, bisogna aprirlo. Assolutamente, quanto prima anzi. Sì. Chi vuole entrare avanti? Conta che io metto sempre lo squelcio, no? C'è un po' di corrente elettrico a 5 e me lo chiude. Quindi chi è al di sotto di tale livello non sento nulla. Non ti sento, no. Vabbè, ciao, buonasera. È Roberto D'Alghero che ha detto che è buona, non so che cosa, è buona, se è la marmellata o la Nutella, non lo so. Non so, io stavo guardando la partita, quindi mi stavo ascoltando comunque. Ti ho sentito, Roberto, già ti sento bene, io non c'era problema. Buonasera a tutti, dai, ciao Marco, Gianfranco, ciao Roberto, continuo a guardare la partita, Roberto ti ha detto che D'Alghero sta arrivando benissimo, Gianfranco. Ciao! Ciao Claudio mio, ho tolto lo squelce adesso, Roberto arriva a Santiago 5, purtroppo era a filo di squelce, per cui non lo copiavo. Roberto mi copi, interrogativo. Scusate, sono qua. Ho dovuto mettere un po' di QRM elettrico, robè. Un po' ostico, però arrivi, dai. Va bene, ciao Claudio, buona partita. Ci sentiamo quando capita, ok? Ehi, Santiago 5. E 9 più 10 qua quasi, Roberto. Vabbè, io sono un'altra posizione per Alghero, dai. Va bene, ciao Robby, un saluto, ci riascoltiamo, dai. Arrivate bene tutti comunque, non c'è problema. A più tardi se coincide, ciao. Allora Roberto, dai, se mi ascolti ancora ti saluto. Purtroppo qua sì, un po' di QRM elettrico, tutta questa robaccia che prima non c'era, 30 anni fa non c'era questo QRM qua, e nonostante il noise blanker, la NL come lo vuoi chiamare, tutte e due ho messo, non un po' ti disturba. Ciao Roberto, dai, buona serata, buon tutto. Ho controllato il segnale, esattamente non è nemmeno 5 pieno, è 4 e mezzo, perché mi si accende e si spegne il LED del Santiago 5. Comunque arrivi, la modulazione, nonostante il QRM, è discreta, ecco. Io poi ho 50 metri di cavo che mi penalizzano, robè, cappa. Ok, alle prossime, dai. Gianfranco è al telefono, mi pare. Marco, ci sei? Sì, sono qua. E anche WhatsAppando, dimmi. No, mi sono dovuto allontanare perché mi ha spellato il telefono. Niente, ti volevo far sentire la tua voce, però devo cambiare apparato. Ah. Vabbè, no, se si tratta di cambiare apparato, Gianfranco, posso usare anche quel sistema solito che faccio io, dai. Mamma mia. Che palle con queste cose delicate per un menu di servizio. Comunque c'è tutto il tutorial su YouTube di come uno aveva lo stesso identico apparato, ha messo un ricevitore o un HF nel suo caso, e ha ritoccato i parametri, prima la regolazione grossa, diciamo, poi quella fine, in modo da risultare abbastanza centrato. E me lo faccio con molta calma dopo, però, perché se sbaglio qualcosa, cioè, non è che puoi sbagliare, mi segno il parametro iniziale, male che vada riporto tutto come era prima e finisce lì. Oh, già. Ah sì, no, avevo il terrore di aver sbagliato Mike, di aver premuto quello dell'apparato senza antenna. Sì, ogni tanto sbaglio il microfono. Ho acceso l'altro, vediamo un po'. Dimmi quando andare. Aspetta, no, ce l'ho già la registrazione. Come Gianfra? Ce l'ho già la registrazione, te la sto mandando. Ah ok, no, se no avrei fatto dai 10 cm a vicino al mic, dai, per avere un'idea. Manda. Chiara, limpida, no, non mi interessano effetti eco, già lo sai, piuttosto meglio segnale basso e radio buona però, radio limpida mi intendo, non radio gaba gaba. È buona. Aspetta, lì poi la mandi a circuito chiuso e sembra effetto presenza, cioè se tu mi senti di persona io ho la stessa voce nasale da adenoidi, la stessa. Allora facciamo così, quattro dita dal mic, questo è di serie, non è trimmerato, questo è di serie ma richiede trimmeraggio. Adesso vicino al mic di taglio, in modo da non soffiare troppo sopra. Canale 10, modalità AM, vediamo cosa ne esce. Allora, facciamo così. Quattro dita dal mic, questo è di serie, non è trimmerato, questo è di serie ma richiede trimmeraggio. Adesso vicino al mic di taglio, in modo da non soffiare troppo sopra. Canale 10, modalità AM, vediamo cosa ne esce. Sono soddisfatto, dai, sono abbastanza soddisfatto. Naturalmente per quelli bassi inutile, richiede trimmeraggio, dai, poco ma richiede appena appena il trimmeraggio in AM. Sì, infatti questo è un altro apparato, perché l'altro non permette in AM questa operazione, lo puoi fare solo con sistema dati, è un'altra cosa. Digitale, e quindi non è un tramite computer che registra un programma molto specifico e lo rimanda poi all'apparato proprio oltre il modulatore quasi, quindi non risente di tutti quegli stari che ci sono sul microfono, amplificatore e pick and track. Capito? Infatti di norma è usato per le trasmissioni dati, anche questo sistema. Eia, di questo solo in FM non so come esce. Non so se l'avevo provato con qualcuno oppure no, ma vogliamo provare, poi ti lascio in pace e così finalmente faccio colazione, dai. Sì, non c'è problema. Anzi, sto approfittando anch'io per trovare sempre i sistemi che siano in ordine. Al mio via, puoi andare. Eccoci qua, quindi dicevo, io tengo sempre potenze basse perché non sono necessarie potenze più alte, quindi non ho... Piuttosto la radio rispetto a prima dovrebbe essere leggermente peggiorata, leggermente, anche se comprensibile, perché l'altra è veramente l'apparato che fa anche la radio. Sì, Caspina, in FM eri paurosamente forte, limpidissima e forte, ho dovuto abbassare anche il volume addirittura, qua in AM l'ho rialzato un po', ecco. Quindi, un modello McKinley. President McKinley. Ma ascolta, volevo c'è la tua parlante sul frontale. Confermo. È piccolo, più piccolo di un 3009. In larghezza è più piccolo. In profondità notevolmente più piccolo, notevolmente. Sembra un piccolo baracchinetto omologato di quelli a MFM. Sì, volevo prendere quello, però costa veramente caro, un pacco di soldi, si parla del 200, c'è un B-banda VHF, VHF, quasi 250, quindi ho preferito una MFM tanto in macchina, la banda laterale, quella di Nicolai. E tra l'altro non c'entrerebbe perché inizia a essere anche grandicello. Eia, in macchina non l'ho provato, non l'ho provato perché in macchina sto avendo dei leggeri rientri, non capisco il perché. A motore spento lo fa di brutto rientro, fa non questo, e gli altri apparecchi tipo la Linco. Se accende il motore me lo fa meno o nulla. Lo fa come quando il motore è al minimo, fa appena un secondo e sparisce. Gli ho messo la base magnetica minore perché poi avevo scoperto, Gianfranco, se avevi sentito, che la base magnetica originale dell'antenna veicolare mia, che è alta 1,5 metri, non aveva nemmeno continuità tra il PL femmina dove abiti l'antenna e il PL che va al baracchino. La massa non aveva continuità e credo che non l'abbia mai avuta, perché l'avevo tarata 10 anni fa quando l'ho comprata, non ha mai preso pioggia, è nuova quasi di negozio, cioè acqua lì non è mai entrata. Però mi sono accorto per puro caso che non c'era continuità. Per stazionare 1 e 1, cioè 1 e 1, ti faccio il, che ne so, 1,15 sull'1 e 1,2 sull'80, era perfettamente tarata sul 40 centrobanda. Ho detto, ma come fa a funzionare? Cioè sta funzionando solo col centrale, come sta storia? Boh. Invece la base Sirio che ho messo adesso, quella da 16 cm, ha l'effettiva continuità sulla calza, no? da un estremo all'altro. Gli ho ritoccato la taratura, è tutto lì. Io non so da dove passi e rientro, probabilmente dall'alimentazione, perché già il baracchino ti danno 1 metro e più di cavo, più quello che arriva dalla batteria è generosamente dimensionato, cioè lungo, è lungo, per comodità l'ho fatto lungo, secondo me passa da lì qualche rientro, e se no da dove passa, dal mic? Non credo, su due apparati già me l'ha fatto. Ho sentito che è passata un'ambulanza. Non so se fosse l'ambulanza o vigile del fuoco. Dipende, guarda, la cosa primaria è che tutti gli apparati devono avere una massa. Certo, dato è difficile perché tu dovresti collegarlo alla terra dell'impianto. Quello non è un atto essenziale. Ecco, la cosa strana, allora la stessa antenna, un giorno mi sono azzuffato dove andare a produttore, se dovevo andare in giro non ho fatto niente, però ho fatto le prove. Allora, la stessa antenna montata sull'attacco a gronda, chiamiamolo così, a portiera, no? Nell'angolo superiore, con massa effettiva su carrozzeria, o anche togliendo la massa effettiva su carrozzeria, questo rientro c'era sempre, cioè che usassi quella base magnetica strana, no? Senza continuità sulla calza, e sia usassi che la usassi proprio con la massa effettiva carrozzeria, il rientro c'era sempre. Ma stavo pensando qualche problema di sottoalimentazione, che con questa storia di cavo lungo che arriva dalla batteria, più il cavo del baracchino, certi apparecchi ti danno 1,5 metri di cavo anche, cioè un po' troppo lungo mi sembra a me. In macchina, sai che l'antenna lì è proprio a pochissimi, a meno di 1 metro, 2 metri da. Guarda, allora dipende sia dalla massa dell'antenna, che deve essere ultima, la lunghezza dei cavi, di opportuno spessore, quindi devi capire, facciamo che assorba 3 ampere, quello lì in trasmissione, forse anche 4, esagerando, deve avere un cavo, perlomeno il positivo, di dimensioni adeguate. Poi ci porti anche il negativo, che normalmente è dal suo spessore, quindi quelli di bene. Poi, sai, uno dice, ma come, c'è la massa sull'antenna, c'è la massa nell'apparato, eppure fischia, quello lì capita di norma quando sul microfono la massa non c'è e quindi fa l'antenna, perché deve essere tutto insieme un po' schermato, capito? Fa ben poco servirebbe una calza, tutta questa calza non porta tutto a massa. Sono qua, mi ha chiamato mamma un attimo. Sì, e poi sono gli stessi apparecchi, cioè me lo fa solo dalla macchina. Per esempio con la Linco accendendo il motore non me lo fa, tende a sparire. Col minimo, appena appena, tende a innescare per mezzo secondo, fa un po' e poi sparisce. Però cavolo, il 3009 non ha di questi problemi, il 3009 non ha alcun problema. Ho provato a abbassare i watt, non cambiava nulla, se abbassabili. Ho provato a abbassare il mic gain e non cambiava. Allora è un rientro, che ne so, dall'alimentazione, dai cavi lunghi, da qualche parte entra. Oppure semplicemente sono baracchinetti schermati male, solo che... Non mi pronuncio, io poi non è che me ne intenda tanto. Comunque, se fosse dall'alimentazione, come posso risolvere sul cavo ferriti? Non lo so, dimmi tu. Le ferriti fino a un certo punto io ne ho preso tante per risolvere un problema un po' diverso che andava sulla videosorveglianza. Sulla videosorveglianza erano mesi che mi capitava questa striscia, non una striscia per il proprio, per le ondulazioni fastidiose, che comunque mi rovinavano la qualità dell'immagine. Se tu la vuoi sull'HD, è giusto che sia sull'HD e non piena di queste ondulazioni strane. Ho detto, ma cosa diavolo è? Le ho provate tutte, schermare, massa, cambio connettori, click e track, eccetera. Alla fine ho visto che era una frequenza che arrivava dall'alimentatore, ed era un alimentatore di quelli piatti che si usano normalmente nella videosorveglianza, ma evidentemente questo andava un po' fuori dai canoni. E allora ci ho rimesso un vecchio alimentatore di computer e quello tutto sparito, tutto perfetto al 100%, è ancora in funzione, lo sto dall'avvento e ho risolto il problema in maniera abbastanza rapida. Quindi nel tuo caso può essere l'apparato, anzi probabilmente l'apparato, può essere qualche collegamento mancante sul microfono, di massa sempre. Sono cose un po' toffe a volte da vedere, perché ripeto, secondo da cosa è generato, è un problema. Guarda, può essere anche un orologio della macchina che magari manda qualche frequenza a rompere le scatole e lo senti magari anche in recessione. Tutto da provare. Vorrei provare anche a passare allora il cavo che viene dalla batteria, me l'aveva messo l'elettrauto per comodità, sottofusibile, ho detto deve tenere almeno 10 ampere continui, così gli avevo detto, per sicurezza. Poi il baracchino consuma 3, 2 anche, dipende dal baracchino, alcuni anche 7 diciamo, vabbè dipende dal baracchino. Ok, Gianfra, io purtroppo, mio malgrado, devo scappare, devo procedere che mamma sta aspettando me per mangiare e mi devo assentare. Oggi non è entrato nessuno, non ho sentito Giulio nemmeno, non c'è mordente oggi, dai. Capita, sai, con questo tempo, con questi sbalzi termici di 10 gradi in colpo, stamattina siamo preso cane, adesso ho tutto spalancato perché c'è troppo caldo, non si capisce una mazza, quindi anche la gente giustamente non sa se guardarsi la televisione al coperto oppure se guardarsi al caldo senza entrare. Comunque mi hai preceduto perché anch'io devo andare a cena, tu devi fare il pranzo, credo, il pranzo o la colazione, non so ancora, e quindi anch'io scappo via. Saluto quelli che ascoltano e me ne vado a mangiare. Eia, ciao Gianfranco, grazie della pazienza, ne abbiamo approfittato a fare queste provettine, tanto ruota non ce n'era oggi. Fosse stata una ruota, vabbè, avremmo fatto altri discorsi, ma no, siccome questo praticamente era stato acceso mezz'oretta e poi messo in scatola, non avevo idea di come uscisse. Sono contento almeno che sia abbastanza centrato in USB, abbastanza, dai, per essere un baraccocco. Ok, buona cena, buon tutto, Gianfranco, ci sentiamo le prossime. Ciao agli ascoltoni anche, ciao a tutti, ciao. Sì, ciao Marco, allora, buona tratta, non è un problema per me, quanti ne vuoi di controlli, perché tra l'altro tu ne chiedi anche pochissimi, e poi rimani sempre con una radio abbastanza ottimale, quindi non c'è problema, non li chiedi tutti i giorni, ecco, e poi vai sempre bene. Va bene, ci sentiamo, buon pranzo colazione, dai. Ehi, ciao, buona serata, ciao.